la banana. Oh, finalmente. Piacciono le banane. Sì, te la leggo. Perché mangiano le banane? Ho mangiato una e poi mi sono comprato 7-7 al taglio, che ci vado male. Mia moglie la sta facendo adesso la pizza a casa, ho detto, non è voi, no, non ne ho voglia. Poi non ha giudito che la via mangiata. L'hai presa? La sera l'hai. Però le migliori di testa di secondo me le fa Vittoria, via via Tempio. La conosco. Esther è un'amica mia. A parole, quello di prima della, di mia nonna, quella con la pizzeria lì. Io guarda, secondo me le fa un bel buone le favelette, provale, tu non le hai mai provate, come fai a dire? Le fa belle croccanti, con un po' di mozzarella, dammi retta, provale, quando io ti dico una cosa non mi dai mai retta. Io sono come Santo Maggio, già ti do retta, ci mancherebbe. Infatti guarda, mi sto comprando la testa, mi sto comprando pure la pizzetta. Arretta a me. Arretta, già l'arretta. Chi è che te ne fa nessuno? Se no, se la vuoi arrettare a lui, arretta a me. Ma Tornado, mi piace, lo chiamiamo Giuseppe Tornado. Ma Giuseppe Tornado c'è già. E allora lo chiamiamo Tifone. Nazzo. Pure Nazzo. Ma perché sei così basso, Anto? Se non ho mangiato oggi, adesso mi metto lo sgabello. Ma basso di radio stai dicendo? Passo di radio e stasera uscì piccato una canonata, adesso sta uscendo carta che fai veramente pietà. Dall'ero trullalà. Vero già, è basso no? Ho Barroso. Adesso so perché c'è quel baracchino, stai facendo il benvenuto. No, no, non so perché. Ora sì che le persone non si giudicano per quello che escono, ma per quello che dicono. E cappa. Vuoi bene? Cappa. Me lo faccio. Dammelo tu prima. Ciao, forse ho sbagliato a capire. Apportante. Cos'è un canale gay questo? No, apportante. Però lo so. Gianni. Oh. Ciao, come hai decidito? Chi? A Franchetto. Stasera, tu non lo sento più. Non l'ho sentito stasera tardi, no? Ciao Giulio, ciao anche a Giuseppe. provate che mi serve un cabacchetto di quelli veloci. Devo mettere il televisore appeso al muro, ma non mi fido a mettere quell'affare che vengono, piastra, no, mi cominciano, preferisco fare una bella mensola angolare ad angolo dello stesso colore qua della scrivania, e viene un lavoro più bello. E ok, qua racconto, vediamo cosa dove trovarmi. Dunque non ci sono problemi, quando decidi ti trovi in bottega, va bene, dai. E anch'io rimango qua vecchio, ascolto, perché qua c'è mia moglie che guarda la televisione, dunque non posso continuare. Ci sentiamo, ciao qua, ciao Giuseppe, alle prossime, mi prendi pure Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Gianni. E devo ora anch'io, perché praticamente è crollato la mensola di un mobile, è caduto tutto in terra, è un casino. Come viene trovato la mensola di un mobile? E in quale mobile? Cosa ti hanno combinato i bambini? No, ho caricato troppo, deve essere una mensola, un ripiano, diciamo così, angolare, quello della cameretta, e è crollato, probabilmente è riuscito col fermo che c'è, che lo tiene sospeso, dai. Ho capito, probabilmente era messo male, non lo so. Vabbè, se hai qualche problema, se ti serve qualche tassello, qualcosa, insomma, qualcosa per sistemarlo, vieni in bottega domani e ci pensiamo, d'accordo già. Ehi, va bene, dai. Speriamo che si possa sistemare così. Ok, dai, dai. Riprendete, già riprendo dopo. Praticamente è un armadio che va ad angolo, è tutto in ciliegio, non è di quegli armadi che tu puoi pensare magari tu ci vuole cose, è tutto in ciliegio. si sono strappate le viti che tenevano i sostegni che mantengono praticamente il ripiano, e quindi è caduto tutto quanto in terra. Allora, io non posso pensare, ma ti pare che posso pensare che Gianni Doppio Rum abbia a casa un armadio intrucciolare? Non gli l'aveva pensato, ci ha più inquadrato. Intrucciolare non c'è nulla qua tutto quanto in legno puro, massiccio, bello. No, vabbè, io rispetto i due modi di vedere le cose. Chi vuole dei mobili che ti durano una vita, chi invece li vuole cambiare ogni tanto, perché ad esempio avere quelle cucine che dice che le paghe ti durano una vita, al giorno d'oggi se compri quel tipo di cucina, soprattutto se non è una cucina classica e vai sulla cucina di tendenza, ti durerà una vita, però sembra sempre che è la cucina fuori moda. Allora a questo punto meglio comprarne una, dopo 10 anni la cambi e va bene così, 10-12 anni, tanto guarda, una cucina al giorno d'oggi la paghi 2000 euro di quelle buone, no, lascia verde. Io l'ho pagata 5.000 la mia, però ti parlo già di un po' di tempo fa, solo che io prima ho avuto mobili un po', diciamo, non andanti, ma tutti sull'accatto, come si usavano prima, no? Per dire, la sala c'era la catta nera, la camera da letto la catta bianca, i mobili del bagno bianchi, adesso invece ho fatto tutto color noce. Gli armadietti del bagno con la noce, il porta asciugamani, tutto quanto corredato con l'armadietto, poi la sala in noce proprio di lusso, quello lì, quella sala costa quanto una macchina. Quando ti sei sposato negli anni 60, i mobili erano quelli di moda? No, io dagli anni 60 veramente sono nato, non mi sono sposato. Non mi brutti tu a me. Io mi sono sposato nell'89 esattamente, 24 giugno 89. Immagino. E io in quell'anno avevo la mia prima ragazza, nel 90, no, 89, prima ragazza fissa. Vabbè, io avevo già fatto 7 anni e mezzo di fidanzamento. Dove? Perché sono in sale del corpo, i 69, 90, 2000, 2000, no vabbè, dopo il primo figlio, dopo la prima figlia, dopo 3 anni, dopo 4 anni. Paga, cosa mi hai fatto la radiografia? Il coppio, ma non è il tuo, una volta, mi ha detto che tua figlia ha 19 anni, e quindi considerando che l'89 più 4, anzi, forse dopo 3 anni, dopo 3 anni. Ma è una cosa che abbiamo voluto noi, perché abbiamo pensato prima a risolvere tutti i pagamenti e cose varie, poi ci siamo vissuti un po' di vita ancora da fidanzati e poi abbiamo deciso di me, ma quando abbiamo deciso ce l'abbiamo fatta subito, non è che, grazie a Dio, abbiamo, diciamo, un po' calcolato le cose, dico la verità, perché volevamo essere con le spalle coperte quando nasceva un bambino, volevamo già avere tutte le spese coperte. Infatti per quello che le coppie si stanno facendo sempre meno figli, perché adesso le spalle ce le hai sempre meno coperte, capisci, soprattutto le persone giovani. Capaga, poi ci siamo, guarda, io ti dico una cosa, noi ci siamo comprati la casa da quando avevamo 19 anni, ci siamo cominciati a pagare la casa, quando noi siamo entrati dentro casa avevamo tutto quanto, già tutto l'arredamento, lampadari, tutto pronto per abitare, quando abbiamo visto la casa così ci siamo sposati. Prima no, non faceva, perché io penso sempre una cosa, che se sono in piano le cose vanno meglio, se sono in salita cominciano già ad andare male dall'inizio. Esattamente sì, ma chi c'è in ruota? Non penso che ci sia nessuno, c'è Giulio all'ascolto, ma non può entrare perché c'è la moglie che guarda il televisore. E quindi l'ho pensata così, mi sono costruito, diciamo, piano piano mi sono costruito, diciamo, il mio impero. Felicità. Ma che, diciamo, oltre la felicità c'era, perché sennò mi sarei sposato, però più le cose materiali da risolvere, ecco. Abbiamo pagato tutto, una volta che eravamo tranquilli per pagare, che a parte il mutuo, vabbè, perché il mutuo un po' ci è rimasto, ecco la verità, però le cose erano già in piano, lavoravamo tutti e due, quindi entrava anche un discreto stipendio, niente, poi ce l'abbiamo fatta a pagarci tutta la casa, adesso siamo tranquilli. Buonasera, tanti anni. Ciao Luca. E allora come fanno le coppie adesso? Lei si sposa incinta, nasce il bambino, spese per il bambino, spese per pagare i mobili, spese per la casa in affitto, è meglio così. Adesso è moda, no? È moda che si rimanga incinta. Tappa di Roger. Dammi 5 secondi un attimino che devo spiegare una cosa. Allora prendi Luca. Papà Luca, avanti, stiamo parlando di matrimoni, di cose, cosa ti sposi? Io, sempre. E mai dire mai. Figlia, ti sposi. Con i barzelletti a blessa. Che è una cosa impossibile. Uno che non ci crede al matrimonio, e allora posso anche capirti, però non è impossibile che ti sposi. È impossibilissimo. Che dici così, non credi al matrimonio? Ma che non me ne sbatte niente, convivere magari sì, ma sposarmi il coppio, ma fai già, no. Cambia. Ma te cosa cambia tra convivere e matrimonio? Cambia, ma pure se cambia. Allora, se ti sposi è più dannosa la cosa, invece convivere d'accordo, io pago per i cavoli suoi. Allora, che anche quando ti sposi, se ti vuoi separare, ognuno può andare per i cavoli suoi lo stesso. Io voglio più soldi per separarti, per fare quello sì. Non so, è quello. La famiglia regolare secondo me sono due persone che si sposano, che hanno dei figli, che danno nome ai loro figli e tutto quanto. Vabbè, ora ci vuoi fare purtroppo. Bobino. Dove sto qua? Sentito questo robot. È così Giovanni. Allora, è meglio che uno magari si guiveggia con la femmina incinta e comincia già a avere tutte salite, pagamenti per il bambino, vestiti, su di gas, pagamenti per la gas, così diventi male. Perché bisogna fare così, bisogna fare il passo secondo la propria gamba, si fa piano piano, si prepara il nido e poi come fanno gli uccelli, no? Gli uccelli si fanno il nido piano piano, quando lo finiscono fanno gli uccelli. Natura, è natura propria. Io. E come mai io ti acceso Giovanni? Ed è un bel va che non entravi più. Sì. Se non l'accendi ogni tanto il condensatore si scarica e dopo non funziona più. Fa come la batteria, no? La batteria quando la accendi la pecchia, ho visto che gli esce quell'acido, si fa il condensatore. Ma tu basta che ogni tanto lo accendi, anche se magari non vuoi parlare cose, lo accendi, basta che scaldi. Purtroppo ci sono persone che non vanno in gabbo e anche al giorno d'oggi mettono in città la ragazza con tutti i contraccettivi che ci sono, riescono a mettere in città la ragazza. Poi non è un casino, è un casino con la foca, è un casino. Oh, Dio. Veneno. fulsi, ammazza sì, Carlo, se non c'è conoscenza è quella la ragione. Deve avere stato in paradiso. Manco a fare manovalanza, niente, no. Dove la ciaccia? Ma tu sei premurato e stai facendo Giovanni? Premura. Comune, cosa sei? Al verde? Ah, ma fisso? Ho detto fisso sì. Detto se sei fisso oppure se sei per 3 mesi così. Ma come sì? Pitturando, facendo, quel lavorino state facendo. E sai che ti bisogna il rischio. No. Marco, se magari vedono che ci sai fare del lavoro e cose, non le tengono conto. Mi copro. Raga, brava, non mi senti qui. Oramai è mio quello. guarda il rischio di fatto se di ora dicono Ario, Ario. Inquinare, fare solo i cazzi loro gli altri. poi di cosa non ho mai fatto niente, comprato la cementeria. Certo, distillerie, raffinerie. Raffinerie, scusa. Già ve ne sono accorto, pure mi sono corretto, però te lo vedo, se ne sono accorto. Ma tu lo sai che lo sbaglio è sempre al guato. Hai ragione. Le distillerie sono pericolose, per l'acqua vite. Raffineria, va bene, c'è molto poco. Comunque non lo raffinano molto bene, perché se metti il gas qua, ti si blocca la macchina, ti intasa tutto il gas, si forma una specie di catrame nel filtro, lo metti a posto cose che è preparo puro, non ti fa una grinza, niente. Il filtro pulito, per averlo fatto il tagliando l'altro giorno, dopo 6 o 7 mesi, cavolo, non c'aveva un granellino, niente. Tu vai a rifamire come andavamo prima, il primo rifamatore che hanno fatto, quello dopo le gallerie, ci metti 5 minuti, io rifornivo sempre lì, e problemi non ce n'erano. Cazzo. Allora, io ho avuto la macchina a gas, la prima volta che avevo la benzina era a gas, e ho sempre rifornito lì, a muro, se diciamo là. Ho capito, padre, sì. Si riforniscono tre bombole, sei difficile là. Dove cambia, è una persona che conoscevo, che vabbè, non c'è più, ma che conoscevo, lo faceva, ci aveva fatto una specie di cosa per mettere nel serbatoio della macchina, lo faceva, però convengono solo a chi le bombole vengono regalate, perché costa di più quello delle bombole. Era uno la usi che me l'ha detto, dice, no, quella bombola allora costava 20, mi pare, 20, 27, dice, mi dai 10 euro, ti do la bombola a 15, mi ha detto. Tu come fai a trovare la mela così? Tu non ti preoccupare, mi ha detto, io ci penso io. Ma cavolo, non dire là. No, andava lì a Mugros, riempiva la bombola e me la lava. Capito, per se caricarsi la macchina si caricava la bombola. Che pagato. Comunque sono cose pericolose e non si fanno. Sicuramente aveva l'appoggio, diciamo, del benzinaio. Ah, non lo so cosa ci aveva, ma tu sai che si caricava le bombe e se le prendeva. Non gli bastava solo la bombola vuota, lui gli portava la bombola vuota e poi te la portava piena. E prendi qua. Che fate, troviamo un film mio. Lo so qua. Gianni. Avanti. Di oggi era felice, Giuseppe. Ha fatto diretta di oggi. Tu già aveva la libidina a 1000. Ma com'è che non torno? Sì, è il mio. Allora, su canale 15 lo sentivo su canale 14. Lo vuole la Monica, va su Baracchino. Ah, buono, non so se abbia Monica. Fece benissimo comunque. Vabbè, c'ha l'orinale attaccato, quello piccolino, mi piccolo 50. Agganciato. Ma così no, perché c'è lineare. Invece una puntina di saturazione brutta. Lineare c'ha. Lineare, quello piccolino. Ma sicuramente lei ha toccato qualcosa, c'ha una unica ambarta. A 27, mi pare 125, una cosa del genere. Lo sentivo chiaro io. Quando era fermo, solo per fermo tu. Benito. Avanti. No, perché non hai toccato nulla di suo macchino? Come l'ho fatto, l'unica cosa che avete fatto lo smitta. La colonnina che non c'era, e tutto il frontalino che era smontato. A me fa che? È tutto oggi che ti dico. Smitta, quasi mercato, va a dire, non lo oggi. Ma non hai visto. Al 12. Lo conosco io. E c'è tu, santo. C'è Annuccia, c'è la parte. Ah, boh, ti ho sentito io. Ti ho cercato anche qua, ma no. Non ti ho sentito. Cazzo, c'è un po' di dice Guisotto. C'è la fondo scala. Boh. Non lo so. Siviglia, cercavo Sandro. Allora fiera, tu hai detto fare lo scorpion tu. Se ti stavo cercando, se posso qualche sera sul 10 a cercarti. No, non ti ho trovato. Vabbè. Evidentemente sto diventando un mezzo rincoglionito. Avanti c'è. Ciao Paola, facciamo tu, non mi hai sentito. Il bello che ho detto io, Antonio, guarda, ti sta cercando Claudio sul... mi ha fatto sul... dove hai detto? Sul 12. Ha preso l'altro lì, infatti ha fatto break. E a voi, Marco, ben detto, eh. Non lasci le donne, no, non lasci le donne a televisore. Il lavoro, non lascio io, no, donna. Sono abituato alle donne, mi basta quello che ho. Non ha problemi. La mia famiglia è serena e ordinata, ma gli bisogna andare a montare un funerale. Boh. È un po' stanco, fuso. Ma a forchetto proprio che te lo fanno scarico. Se l'ho detto io, un attimo a me che mi sono proprio distratto a mille. Ci mando i figli e gatto mi ha scoppiato un guago. Portato qui, da dove vengono, non ha dato, gli dovrà portare 10 registri, tutti gli impianti, a fare tutte le relazioni e a trascrivere tutte le analisi da quella dell'altro, nei registri, nei tritti, nei tratti, a zotto, bim, bum, bam, gatto mi ha scoppiato un servizio. Ma succede, certo, è che... ho sbagliato anch'io, non voglio fare il break, capito? Era un discorso molto interessante, sono rimasto in ascolto e niente, raga. Ehi, capito, non succede. Non è che uno si debba succede qua, non è successo niente, non ti preoccupare. Vabbè, no, ci giorno stavo cercando, e tu poi avrei fatto una scena che accorto che di tu. Figurati, anche un biliardo dal discorso di Romario, con Sandro, stiamo decidendo di andare alla fiera di Genova il 21 di dicembre, un po' tutti assieme, li porto io, ci sono già andato, non sono mai stati, e quindi stavo andando a fare un po' il discorso e mi è sfuggito dalla mente che c'era il becchi, figurati, va bene, così hai detto Antonio? Saluto, metti che ci vedo anche io questa nuova fiera, così mi compro qualche parecchietto. Non c'è un parecchietto, ci sono parecchioni. Parecchi comprare ci sono lì. Qualcosa vi compro, perché mi manca un po' di apparecchi di cuore, la verità. Sono come un paio, che altro. Qualcuno antico me ne voglio prendere di quegli HF e poi un paio di V e basta. Portateli, non mi interessa la parte di scelta. Perché ci siamo portati qualche lavoretto ogni tanto, installare antenne, no, per così per fare sentire. Quanto mi volete, ma anche solo di chiedermi, ne ho 8 io di VHF, 8 ne ho VHF soli, portati, sono quelli della zofila che li ho ritirati tutti, perché ne stavano approfittando, e allora tutti a casa, capito? Quindi quando te ne servono due, una persona per giù. E se non te l'ho detto, ti do lo strumento della birdi, non c'è problema. Lo attacchi sotto l'antenna e schiacci il portale. Quello va anche in trasmissione. Dal contatto con lui alla trasmissione dell'antenna, ti segna il stazionale sotto l'antenna. Con quelli si fanno le parature, no? Sali scindi. Io c'ho quello strumento, l'attacco sotto, anche quello avevo comprato la fiera. E ti segni automaticamente come attacchi più e ti segni stazionati e accordi. C'è un sensore, c'è un lì, e va automatico. Accordi una torna direttamente sul posto, poi scendi giù, gli attacchi in cavo e li ho formati apposta. Non bisogna che l'altro fare. Ho fatto 4 ventenni io nel tuo discorso. Con quello, senza fare sale scendere, allora cosa fa buda io, me ne sto tutto andando a nanna. Tanto, vi saluto tutti e statemi tutti bene. Continuo questo anno, e 144, non più un correttivo esecutivo. Ciao, ciao, ciao. Ci sentiamo nel prossimo. Stammi bene. Buonanotte, spero che. E ecco, 194 con tutto, ci si riascolta. Vai a tornare. Via, ciao Gianni, ci sentiamo. Buon correttivo con tutto, buonanotte. A domani. E ora c'è da quando mi ha detto non è niente, mi ha detto, e vabbè, ho detto non è niente. Quando si è allagato a casa, ho detto, io proprio non sono i miei, ho detto, che a me indennizzo, me l'ha fatto a me. Anche quello è un problema. No, no, io sulle antenne non ho mai avuto problemi, l'ho sempre più fatto da solo. Ho detto, ce lo so mettere a birri, quando ho problemi uso quello, se sono piano basso non c'è problema, se sono in alto uso quello, ho attacco diretto sotto l'antenna e lui ti segna in automatico, lo appari e te ne scendi, lo puoi piazzare tranquillamente, finire e te ne scendi, non ci sono problemi, attacchi l'antenna, al cavo giù e dalla push. Soprattutto quelli che hanno regolazioni così, come la Mantova, Superstella, anche la direttiva, le cose, insomma, le c'ho io. Quelle V1 non c'è problema, perché quelle sono dirette, una volta che le piatti le chiudi, non hanno nessuna regolazione. Ma per il resto bisogna essere organizzati per piazzare antenne, se no è un casino, capito? Va bene, vai, anche io rimango in quelli che salutami Antonio, vado bene un po' di TV, sono già 10:30, sto sentando un po' una notte, una vecchia frequenza, parecchia una notte, ma però parecchia una notte, ma va tutto in fondo degli studio, ma è uscito dei mattoni, per carità, con i TV di Giuseppe. Capito. Ben entrato tanto grande, sta facendo un covid, un po' di bianco siamo la televisione, siamo solo noi due, i due della prima linea. Ai ai ai, radi, radi, ma io però mi entrare a giocare il radio, tu come te la fanno io con loro, a me la regione non ho problemi, ma ho battuto in torno con loro, non ci devo ammazzare, ragazzi. Non è più calmante, ho qui, ho là. La ragione di Giuseppe, qua, qua, qua. Adesso, allora, io vedo che pare proprio così, eh. Entrate, vediamo se ne ho fatto un avvio. Dopo? E la sera di mezza. E non è fatto lì. Oh, yeah. Che la che crua e che la che cotta. Oh, io. Mamma mia, che barbara, ma io lo so. Io faccio l'ora che ho mercato, un po' mi piace, che non mi piace cambia canale. Adesso lo cambio io canale, non c'è il problema. Una tutta serna. Una cosa certa che da quando sono andato a radio il piede di testa non voleva mai nessuno, quindi non penso voleva mettere nessuno. C'ero di bu. Sembrava chissà che cosa che si volesse fare è spaccare il culo al grillo. E invece, ciu ciu, qua qua qua, vai a fare. La persona tranquilla, l'unico problema è che c'è quello che dicevo io, tra le quali il lavoro è su darsi i soldini, purtroppo non c'è niente, quando fai lavori mi approfittano della ricezione di buoni di culo, mi danno messa in culo a me, mi 200 euro mi hanno bruciato. Io ho telefonato oggi a Giuliano Mondato e quindi a Giuliano l'affanculo da in poi. Non mi sveglio più alle 6 e mezzo di mattina per andare a fare il dolore del lavoro qua dentro. Quando è mezzo e mezzo si chiama qualche cinese, qualche negro, se si fa fare il lavoro, se non si fa fare in culo. Allora bisogna far così. Cioè, qualche cosa bisogna inventarsela. La signora Gia questi giorni pigliava qualche molto carrozzella, va a cercare mobetta, ma no, qualcosa me la prendo, come fanno tutti. Ferro, rame, quello che è, poi mi ci fanno i sudi. Dato che è lavoro, cioè la mobetta se la comprano i romeni. Sì, quando stavo traslocando al centro storico a qua, c'avevo uno di quelle radio antiche, un televisore di anche me da quello con la radio e leggi sotto, l'ho lasciata 5 minuti fuori, non c'era più, e così altrettanto di un amplificatore bruciati per auto, poi ti posso dire addirittura uno ci ha applicato un letto tutto intero, tutto, non c'era più, dopo 5 minuti sono passati loro, ma con la testa andava così veloce, era la pulita. Ma tutto normale, ritrango, verso le 2, 2 e mezza, a volte io rientro presto, passo dalla zona di Castel Sardo, no? Salgo dalla Butti Butti, c'è la coda dei furgoni di questi zingari, perché più che zingari non sono, ma a decina, tutti in fila, aspettando che fatto il cosmino per andare a scaricare. Specialmente il lunedì. Già, sono così, mi sono spaventato, tutto questo non so, l'incidente, no? Poi c'è tutti questi furgoni carichi di ferro, ma anche macchine ci arrivano sopra, capito? Non ho capito come fanno a caricare sopra il furgone senza gru, senza niente. Anche macchine vecchie, moto, di tutto, vera, scarpa, bagni, lavatrici, di tutto. Tutti in fila aspettando che acqua e cosmino per scaricare. Ma voi non sai se la roba fa chi subiva lì sopra oppure chi subiva la regheni, la roba. Specialmente lunedì mattina, no, stavo qua, lunedì mattina è stracco. E perché se tu li chiami di sabato, vengono anche di sabato loro, capito? Si tengono il camioncino carico nell'accampamento in Chivi e poi lunedì mattina vanno al Bosmino a scaricare. Mentre non accedono le vuole invece. Io sono andato a Marcello un giorno e gli ho detto, ma no, lo conosco a Costantino. Ha detto, ma non vengono per zingari, zingari, c'è un mazzo di zingari che voglio travagliare, buono, ti voglio mettere i coglioni. Ando a socio. Ma stai davvero lavorando? Non so chi è un cacco. Ando a finocchio. Non so chi è un cacco qua. Vedete se due cacchi con la gara in cacchio. Come fa? cosa impressionante. Ma lo butto io, nel caso di dove ci sentiamo, l'ultimo mezzo allora, non me l'ha fatto un cazzo, ci muove l'ultimo mezzo cambiato. Cazzo come me, poi mi fate gli scipoli sui, ma scipo veramente, va. Cuffie, come tre scarafaggi, mamma mia. Che mi dici, questa cosa croccante, mi viene dolore. Tutto il registro, tutto cazzo, ma che ho tutto in mezzo all'acqua, c'è un bianco, ma fotte un gioco un brinco, cazzo. Ma che ancora, ma non la bu e anche fa lì. Ma come c'è la topo qua dentro, cazzo? Lascio te il topo, e chi fu giù come va? Cagna giorno. Fate centimetri era. In campagna scende allora. Cazzo che la gelo qua! Nel 94, vista militare, me lo pisce di matto, ma dopo ce la facevo più. Tu in casa la piscia, non è che ancora via lì, ma sta via tutto mondetta. Arrivo lì, che puoi arrivare vicino al cassonetto, no? Cazzo, ma faccio i pantaloni, ma non si è venuto fuori a pantaloni, non fa pantaloni. Cazzo, mi ha detto che mi ne esci tu, cazzo, ma è una gatta. Mi fanno schifo io quando... Io ho visto uno, non poteva, quando avevo quello vicino a 30 anni, tu lo lasciamo andati noi, veramente lì tu sta attento, ricordo che un capo di giro, lo lasciamo andati noi, che ti ho portato a vedere che dice che non stava levando l'acqua alla corte, lì, lo lasciamo andati noi, io da un giorno, boh, ci ho comprato gli osso, me lasciamo andare tutti, lo lasciamo andati noi, tu, dove c'è sollevamento, lì. Spunto sopra il tubo, come io sono sceso lo scaricato, si è sollevato il dito e mi ha puntato. Ma di dito si è fatto quel culo qui. Così c'era uno che si chiamava Mario Montelva, te lo ricordi qua? Che era l'oggettivo. Modulava con la direttiva. Con le nuda, non Montelva. Con le nuda, lo aveva lì a Fabiani, con la direttiva, parlava da vicino a casa di Bartolomeo e Chisiella, naturalmente. Ma lui entrava come Montelva, io mi ricordo. Con me entrava come Montelva. E... cazzo ci va forte. Era lì a grande triale. Era lì a grande triale, sì, perché lui praticamente aveva la casa Montelva. Che c'è ancora qua, se tu vai a trovare l'Argentino, Montelva praticamente è in mezzo tra... sarà un chilometro e mezzo dall'ingresso del fiume Santo, quella monta che c'è a sinistra, quel caseggiato rosso che si vede in alto, quello è l'impianto di sollevamento, lì c'è l'impianto di la stazione di pompa che manda l'acqua a Tintino, la Corte, Palmadola, tutte quelle zone lì, e se tu guardi prima dell'impianto c'è una casa abbastanza grande, c'è un'antenna ancora, non so se 91, boh. Appagato. Ma lui lavorava fuori, mi pare tanto veniva. Però Fabiani lavorava ogni tanto era intorno a me. Poi l'ultimo periodo si è fermato lì alla zona industriale, dove c'era la fase della calcestruzzi e rimaneva lì. Sì, e i mali e cazzo si muove il corpo, porca miseria, uscivano tutti forti. No, ma io sono lì sul canto, con la stazione pompaggio è un covo di tutti, perché è praticamente in mezzo a una campagna. E ci sono due o tre pastori, quindi c'è molta sporcizia, hai capito? C'è molta sporcizia. È un covo di soli, ma soli di baroccato, mi ha soli con i gatti. Era seduto sul tubo e non sono entrato, l'ho visto, ho detto, ah, oh, cazzo, proprio in chi mi devo dire che puoi usare. Ma sì, però non si è posato dritto, e tu mi fai in 4 cm dritto. Con anche io sì, cazzo qua è un canguro, la bocca a becca. Ah, anche dritto, mamma mia, dolci, a vederci, mi sono fatto io non mi sono cambiato. Addirittura sì, così si muove il vaso, e poi sono carini, eh. Quanto fanno schifo, fanno, sono un topifoni a cazzo, una bufona di sì. Sono topifoni, ho fatto un cinghiaggio a me, non ho fatto il pane che ho regalato lì, cazzo, prendi mi sembra tu, se muori su, non vedo da dove vivi e da mangiare. Sotto casa, no? essere che tu non sei la cipogna, la cosa ne so, ma piccolino è me. La macchina può comprare due barri, come per me può andare a segnare da pallini e avrei il paese qui. E che tu le fanno bene danno lo stesso a quelli piccolini, ma quelli grandi mi fanno schifo a me. Antonè, riprendi Antonè. E ma noi subito lo mettiamo una male. Chiamano questi, in campagna è a pieno, intanto ne trovavo due o tre, e mi ha detto, quando stavamo chiamando a casa, io mi ho detto che solo tutto era parecchio, mi ha detto, c'è qualcuno c'ha poco, io uscia lì. E ho detto, aspetta, no, mi riuscia a poco. Sono stato detto, mi ha detto, qua la vinta, due usciati, due pacco, per la bella venire a casa. Usciati, è un più lo stesso, ma non tutti, non gatti. Oh, ma mi è capitata, quando ero più ragazzo, abitavo a casa di mio padre, ragazzo. Dice non ti viene nulla a Claudio, che dici, non ti viene nulla a Costanza. La vita è trovata, perché ci sono due voglie, ma hanno una iata Maria. E che aspetta di fermare cosa, Edo? Allora vedi come è 200 km a luna? Ma ha detto Costanza, ma che lasciamo a me. Finita, mi chiamo proprio in mezzo alla moto, cazzo, dopo ho detto, c'è una vita. Ma la gabbia no, c'è la buccia di vetro, prima era fatto la buccia di vetro in alto. Beh, se muore il buco, guarda la gabbia, ragazzi, allora muore il buco, un missile. Ma è usciato, era? È usciato. Cazzo, mi ha detto il buco, ma si è passato sotto la sua macchina. Un minuto. Quindi la campagna è piena di... a parte i topi, i conigli, i furetti, lì tutto c'è. Figurati, anche le bisce ci sono, lui ormai è tutto parco abusivo per gli animali, capito? Non è più coltivato, quindi ci trovi di tutto, ci trovi. Camminando, io però sono, si passano davanti i colibri, si guardano e dopo gli se ne vanno a mangiare, la mangia a teme, ti salutano di Natale. Sì, lì a Piero è una zona molto, molto piena di conigli, è vero. Sì, ma che è un terrace, non è andato da rimanere, che non è tra il buzzolese. Ci ha portato anche a Scubi, ci ha portato, manco con i conigli ne passava. Manco lo voleva, addirittura, davanti a lui, neanche lo voleva. Certo, a Giampiero, ma quello non è Scubi, no, dice quello il coniglio, eh. Va bene, dai signore, che domani... ti aspetto una giornata, vi auguro una buona notte, mo tutto, e ci si riascolta, ciao Claudio, ciao Gianni, ciao a te un po', e ci si riascolta, e anche Luca, tutta la casa se coincide, ciao, buona notte. Quanto buona notte, ci sentiamo la prossima, avanti Luca. Seduta specifico, chiamiamo solo il globo. Invece all'orbito il portamento si è rotto, il portamento mi ha la tetta, e ho visto tanto me. Invece Luca, a dire giocare a poker. Tu dopo sei uscito al torneo, la parla lui a casa. Ciao, lui vinto 500.000. Sì, vabbè, sono virtuali, sono veri. Se sei vinto non sono dei veri, diciamo, mi ci potete mandare a fare una rapina. Come se andrò con la Valghero. Lo senti? Sandro, buonasera. Siamo nella merda, abbiamo saltato tutte le ferie, sta facendo miracoli e tutti i pressione, ma per fare qualcosa, la fai e basta, ma continuando a lavorare. Fossero stati 500.000 euro, ma l'avrei preso anche io 3 mesi di aspettativa. 500.000 euro fai ben poco, quindi lui, di quei 100.000 euro sicuramente ne avanzeranno ben poco in un mese, sicuramente. Perché uno di quelli sputtano i soldi come io sputtano le sigarette, tranquillo. Figure, va. Sembrava, guarda, te lo giuro, sembrava di aver vinto 100.000 euro dal tuo. Anche il tabaccaio era convinto, solo che boh, è che mi ha preso un biglietto da mano e non ho visto, vabbè, pazienza, cioè, sembrava qua il biglietto, ma comunque. Convinto lui, però c'era un altro ragazzo che ne ha preso tanti, tipo 200 euro così, no? Cioè aveva soldi, tutto qua. E allora perché ha avuto un incidente, avevano pagato, non so quanto gli avevano dato, e io solo compravo ogni giorno un biglietto a rotta di collo, tipo 200-300 euro, 400 euro di biglietto al giorno comprava. E il bello era che io ho speso 10 euro, l'hanno pagato 100.000, insomma, qua, perché sennò veramente c'era una vincita lì, di cui mi sono dato matto l'altro, ma se non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque quello delle carte, praticamente lui ci è rimasto un po' male, dice, cazzo, ho speso tanti soldi, tu un po' più soldi hai vinto. Infatti di quella sera mi ha detto, te ero io 100.000 euro in contanti, diceva, non si va bene, no? E lì mi ha toccato tutti la mano, che figura di merda, veramente, ma figura proprio di merda. Succede, quando non si è sicuro, ma anche ci sta mancando la stessa cosa, gatto, convinto, e di aver vinto, figura di merda anche lì, ma vaffanculo, ancora tanto. Gatto bene, pulisco lucido bene, c'è una vincita bene, se no pazienza. Beh, non è per noi, non è per noi, i soldi vanno ai soldi. E li ho vinti 5 anni fa 10.000 euro, ma me l'ho comprato la macchina, finiti i soldi. È vero, claro. Non lo so. siamo scesi lì vicino alla spiaggia, appena siamo entrati ci eravamo andati calabili e fisso sembrava che avesse visto un cavallo fuori di una macchia. Quindi va Luca, conosceva con la Saxo blu uguale a quella della guardia, ci aveva mantenuto davanti con la cornerone uguale a quella che c'erano loro, Sandro, con la cornerone diciamo tipo la frusta nera, però con la cornerone davanti al porto Antonio TV al centro avevo quella vuota che da 30 cm 40 cm nera. A tutti i posti del blocco mi salutavano, non mi ha mai fermato nessuno con la macchina. Precisa identica. Non mi fermavo davanti a qualche bar o qualcosa, che cazzo scappavano, tutti guardando stavano. Eravamo sempre io e mia collega, quindi ci prendevamo per finati e mamma cucina in barra. Dove c'è un'opportunità sono quelli che io ho guadagnato in più rispetto alla 519. Got to. verso il doppio R e ti accorga, prima ti accorga l'ombra che la valva, ma ti fa volare la pressione in uscita, quindi vedi subito la stazionaria, dopodiché inserisci l'accordatore, tutto l'amplificatore, e ti segna la stazione normale in accordata sul picco di modulazione. C'è l'amplificatore d'antenna, una bestia, una bestia pesa 35 kg pesa. Guarda, abbiamo portato in due un sangue del tigre su, spaventoso veramente, sto dicendo che è grande quanto il tigre 922, è tutto nero, il frontale è tutto radica di noce. Senza lavarmi, per venire sporco, sai lo sporco, luce, poi c'è dopo la luce, ha preparato tanta roba, mi faccio la sua uscita, poi devo andare allo spin, a prendermi roba da bere, se no non sei neanche uscito qua. Yes. Ma io lo so che adesso conosco, ah, beh, Giuseppe. stare sempre con quella del terzo più accanto un rino, perché quello è un malaturino e il terzo è quello piccolino. Oh yeah. E poi quello che ha messo a posto di qui? Già, a posto di quello, Ti dico, beh, ti ho sentito. Ti ho sentito, bello forte, non c'è problema. Beh, arrivava, ha fatto l'abbinamento con la cosa, con il reale, e dunque sta uscendo abbastanza bene. Adesso ce l'ho qua a casa, distaccando i fili, tutto quanto, e l'ho portato a casa, perché in casa non sa mai cosa di questi malintenzionati che mi aprono la macchina per rubare l'apparato. Non ti dirò sai, Giuseppe, bisogna sempre staccare tutto e portare tutto a casa, se no è un bel casino. Mamma e signore, sono 10:30, anch'io me la vado a mamma. Saluto a te Giuseppe, Luca, Giovanni c'è ancora l'ascolto, Antonello. Buonanotte a tutti, c'è anche Sandro, Dalghero, a Falchetto se sei in ascolto. Ma ci sentirò domani. Il motto è sempre quello, Giuseppe. Tenete duro e prendetelo in culo. Giustamente, vabbè, ma come lei oggi non c'era il pentaccio, cazzo, ma come se non è venuto a lavorare, era ora. Siamo cani mandroni, se Giuseppe se va a vita dell'Allende, sono anche del riposo, capito? Quello tu vedrai tra un po' si mette malattia, non c'è voglia di fare niente, già lo so chi è, lo so. Quello non voglia fare una pipa, capito? Ed è anche pericoloso perché secondo con chi è in coppia non mette in grosse difficoltà. Appunto perciò, ma io l'ho già detto, no? E l'ho detto a cosa, l'ho detto a Antonelli, non mi mettere questa persona appresso a me perché non lo voglio. Ma perché? Perché non lo voglio. Conosco già la persona chi è cazzo, e non so chi. Mettilo, mandalo là alle scuole, assieme a quell'altro, a me lasciami da solo lavorare. Io se sono da solo lavoro molto meglio. Meglio solo che male accompagnato, il professor dice. Ma infatti, non state però a dire figlio nipote di chi è, capito, che è brutto perché non va bene. Ma se la salve Santa Base, caro sua vicina di Romandi, cos'è? È un guasto, un handicappato, cos'è? Per carità, per quello vuol dire non mi hai fatto niente. Perché non vale proprio niente, capito? Ti fa fare figure di merda, quindi è meglio lasciarlo stare per i fatti suoi. Va bene, vai, ciao Giuseppe, un abbraccio, a intenderci domani, ciao di nuovo a tutti, buonanotte, vi spengo tutto qui e me ne vado a nanna, cambio. Ciao Cra, buonanotte, buon 144, buon trabacco per domani, dai, quando lo fai. Vabbè dai, ok, chi è rimasto in ruota? Papà, addio, su questo passaggio. Vi saluto tutti, a domani, buonanotte a tutti, mai, domani sarà una nuova giornata, cavolo. Ciao Luca, buon 144, un buon trabacco per domani, non lo fai, dai. Ok, ci sentiamo tutte le prossime, dai, ciao. Ciao a tutti, ciao Alghieri, ciao. Io non so tanto che ho risolto. Allora, non ho mai fatto tanto con il autorino, ho fatto, quindi si chiama Claudio, Luca, Colombo, Saulo, non so tanto che ho risolto. Sei l'altro Giuseppe che è un'antenna un po' così, dai. Sì, ogni mattina fa drin drin alle 6:30, drin, certo, forse me sono ricordato, devo impostare la sveglia alle 6:30, dai, sentiamo domani, dopo la banchetta e la stai, ciao a tutti. Aspetta, di rosso, va, chi era Luca? Quello di Alghero, chi era? Sandro Conan. Ah, Sandro. E vedi che già mi conosce abbastanza bene a me Sandro. E abbiamo congiurato altre volte con lui, quando era Alghero. Sandro mi dice che li conoscete, un Giuseppe Leoncino. Dice avete mutuato tante volte il via ad Alghero. Dice che ha modulato anche quest'estate insieme a lui, ho modulato. Chi è? Quando ho fatto la stagione. Antonio. Che sta parlando sotto, chi è? Le scariche io. O le scariche? Vabbè, comunque, no. Saluto da parte mia, o Luca a Coso, o di Alghero. E dicono che c'è qualcuno che chiamava, ripeti, che vi siete modulati quando Giuseppe? Questo che ci abbiamo modulato anche quest'estate assieme a noi, ho modulato anche quest'estate assieme a che ho fatto, che quando lavoravo a Ghero io no. Allora, boh, dice che quest'estate avete modulato assieme a Sandro, quando lui stava lavorando giù ad Alghero. Questo non mi ricordo, che io. E sono sceso due volte a trovare Cavallino io, un amico. Non lo ricordo la baracchina, un amico di un programma dove entra un Cavallino, entra Coso, Carlo, una gente lì. Sono sceso a trovare due volte, lì dove lavora lui. Che fortuna. E ma cammina a un Lucaiello. Chi? Lucaiello. Chi è? Manto tu sei. E me. Caravango. Ma Antonio, il grande Antonio Bronte. Chi sei io? Antonio Bronte. Tu sei Antonello, sì. O temeno. Ora signori, mi ha confitto questo passato clip. Ciao a tutti, ciao a ciao a Giuseppe. A domani, ciao. Ciao, buonanotte. Certo, buonanotte. Io Antonio Frode, buonanotte. Sì, domani, ciao. Antonio Ciotte sei tu. Sono Ciotte. Sono Città, ciao. Damacco. Damacco. Oscilandia. Allora vedi che Antonio c'è fuori. Viene da Ciobito. Hai capito? Origliano. E beh, i pipistrelli escono di notte, Antonè. Da Rosaccio. Origlione. Origlione. E beh, Grodino. E beh, tornato. E beh, Orione. Fa rima con Orione, fa rima con te, fa rima. Il tè. E cosa c'entra il tè? Antonio. Via. E beh, come c'è il basso? Te l'ho detto Antonello, che se c'entra sempre il soffone. Ma sei? Sei Anto. Fone. Fone. Cos'è che state facendo? Cosa state dicendo? Cos'è che state dicendo? Oh, yeah. Stai alzando oppure ti stai coricando? Sto nicchiando, sentendo qui. Ah, scappa. Antonè. Dimmi. A metà di Trasamanzano andare a quel posto, mi. Eia, tranquillo, ho già organizzato per domani. A me no, fammi sapere qualcosa, se è positivo o negativo, ha capito? E io tranquillo, ci sentiamo domani. E tua moglie dove è? Coricata? Sì. Mi sta guardando il televisore, tra un pochettino anche lì, ma a nanna. Ah, io ho capito, capito, ovvio, per carità, non c'è niente, non c'è trippa per i gatti. Almeno le scatolette di cane c'è a Lady Market che costano poco. E quelle della... cos'era? Kiteka. Sono diverse porzioni, sono i croccantini, 5 kg, 2 euro, e i 2,50, 3. Dunque la voglia che ce n'è da mangiare a buon prezzo. Sì, io arrivato a un certo punto, credo, se tutto va bene, siamo rovinati, Sì, ma ricordati che la speranza è sempre l'ultima a morire. Lo so, però ci vuole sempre materia prima, Antonè, ci vuole sempre materia prima, e se non c'è la materia prima non puoi fare nulla, nulla di nulla. Lo so, purtroppo è lo stile di vita che ci hanno imposto i potenti della terra, sopportare quando nasce e quando muore, è così, c'è poco da fare. Antonio Grotte. Guarda, stavi dicendo quasi una cosa giusta, siamo vittime di quello che gli altri ci impongono, non ultimo il concetto di infelicità e non ultimo il concetto di lavoro dignitoso, perché lavoro ce n'è, è abbastanza per lo cercare. Sì, sì, e dove lo cerchi? Quando una cosa non c'è, non c'è. Qua non c'è, fuori sicuramente ci sono un po' più di opportunità. Ma la cosa facile non è trovarlo quando c'è, se ce n'è troppo, l'offerta supera la richiesta, la richiesta che supera l'offerta, allora sì, è inutile di essere. Ma ci sono tutta una serie, secondo me, di lavori alternativi, questo può dar fastidio a molti, questo discorso che sto facendo, che obiettivamente non prevedono certamente un'agiatezza, però di rimanere un attimino su. E se voi ce ne consiglio un paio. Avanti. Siccome a dimostrazione di questo, di quello che sto dicendo, vuole essere una stronzata, sono pronto a giocarmici quello che vuoi. Tu sei pronto? Sono pronto a che cosa? Ancora non hai aperto bocca. Oh, a farlo. Tu sei pronto a farlo? Sì, che cosa però? Allora, ti dico una boiata. Domani mattina io e te ci incontriamo con un secchiello di olio esausto di macchina, ci mettiamo due tute da lavoro e andiamo a oliare con un pennello le rotaie delle saracinette dei negozi, a 2 euro a cosa negozio. Rotaie delle cerniere, di quei negozi giustamente che si chiudono la sera, quelli diciamo le serrate di protezione. Camparoccia, tu chiedi dai 2 ai 3 euro. Sei pronto? Si può provare, perché no? Potrebbe essere una buona esperienza, anzi una bella esperienza. No, è un lavoro alternativo che volente o nolente ti dà vuoi che almeno una trentina non ti dicano di sì. Stiamo parlando di 3 euro, chi è che ti rifiuta 3 euro? E 30 non li fai al giorno? Penso proprio di sì. Ti sto dicendo, le fai con un materiale di scarto, che è l'olio esausto della macchina. Cioè vai da qualsiasi benzinaio che faccia cambi olio e decidi di dartene un litro per la motosega e dopodiché ti compri un pennello, ci compriamo un pennello e andiamo nei negozi. Quando scommetti che tiriamo su più di quanto tira una persona che lavora, che ha il lavoro fisso? Guarda, come ti posso dire, non posso dirti di no, perché chi è che non ti dà 3 euro? Giustamente uno... diciamo ne ha approfittato della situazione, ne ha compensato un'altra, diciamo che quasi si equivale alla proposta che hai fatto tu. Ci stavo pensando, la verità, l'avevo messa in tasca, a usarla proprio negli estremi, se veramente che proprio sei proprio nelle condizioni più pessime che uno potrebbe arrivare. E diciamo che qualcosa del genere l'ho pensata anch'io, diversamente, però il concetto è lo stesso. Dillo, dillo, intanto non te lo ruba nessuno, non ti preoccupare. Io credo che nella vita sono più quelli che si lamentano che quelli che si tirano sulle braghe e agiscono. Chiaramente escluse per esempio, però sto dicendo, è facile lamentarsi, avere l'idea e metterla in pratica. Boh, chissà perché siamo tutti un po' ricchi. Dilla, qual è l'idea? No, per carità, ci stiamo vedendo in privato e meglio, non mi piace perché, sai, l'apparato, ci sono molti orecchi che ascoltano e sicuramente molti staranno ridendo, e per carità, per la proposta. E, un tempo mi fidavo, adesso non più, preferisco più dire le cose in faccia che nessuno ascolti, diciamo, le mie cose private. Va bene, io ti ripeto, io non è che mi sono fidato, non mi sono fidato, questa è la dimostrazione, perché se c'è qualcuno che sta ridendo della proposta fatta, sì. Però se ci pensano un attimino, ne vedi domani mattina gente che ha voglia che lo fa questa cosa. Di questi lavoretti ce ne sono 2000, che ti mettono sì nella condizione certo di non sopravvivere, o meglio, di sopravvivere, però certamente di non rimanere a casa a piangersi addosso. No, per carità, domani faccio un paio di commissioni, vediamo cosa esce fuori e poi nel caso ti chiamo e ci incontriamo, perché no? Se lavoretti ne ho 2 milioni direi così, ti sto dicendo, finisci uno, cambi là e vai sull'altro, però ti sto dicendo, è facile parlare sicuramente come sto parlando io quando adesso non vuole essere motivo di vanto, c'hai un po' le spalle coperte, però è anche molto più facile piangersi addosso e dare la colpa alla società che non ti mette nella condizione di essere quello che vuoi essere. Basta tirarsi sulle braghe e andare, cammellare. Io sono finalmente d'accordo su questo discorso, però c'è poco da fare, la società condiziona. Volente o volente, condiziona, non ti preoccupare, sei condizionato anche tu, sicuramente tantissime cose che ancora non ci ho pensato di stare lì a guardare dove ti sia condizionato oppure no, però è così, inevitabile Antonio, è inevitabile quel discorso lì. La società ti condiziona solamente nella considerazione che tu hai di te stesso, perché a tutti i costi tu ti senti povero e disagiato perché non hai il televisore a cristalli liquidi, perché non hai il maxi schermo, perché non hai la macchina che vorresti, perché non hai il vestito che vorresti, per tutta una serie di cose ti condiziona e ti fa credere che tu non sia una persona ricca, mentre invece non è così. Tra l'altro la ricchezza e la povertà è esclusivamente una questione di territorialità, cioè ti faccio capire, tu rispetto a una persona che abita anche in un'altra parte d'Italia, nei sobborghi disagiati di Napoli, sei un miliardario. Per non parlare poi, se ci spostiamo un attimino su un altro continente, tu sei un arcimiliardario rispetto a un africano. Veramente d'accordo su questo discorso, ma quando poi diciamo inizia a vivere una società che all'inizio tra virgolette era ricca, logico che poi ti condiziona un po' il modo di vivere, ma per carità, io per fortuna non sono di quei tipi che sto lì a lottare per avere un televisore, un telefonino di una generazione, sinceramente la partita non me ne frega niente, la verità, non... Sai, avevo sempre comprato cazzate di secondo io alla fine, non è mai adesso messo a comprare mai cose nuove. E la mia priorità era un futuro della mia famiglia, poi per il resto può rimanere anche senza niente. Il mio unico pensiero è quello, al di fuori di quello sinceramente no, non me ne frega nient'altro. Quando vedo la mia famiglia felice allora ci sarà un momento in cui io avrò mi vorrei togliere un ospizio, giustamente metterò da parte, però l'acquisterò, ma nel momento in cui non vedo queste condizioni, io sono anni che non prendo niente, quindi prendo sempre tutto di seconda mano a due soldi. Comunque, la cosa che secondo me salva le persone è riuscire ad adattarsi a seconda della situazione, mettersi nella condizione davvero di superare così i momenti di difficoltà, perché parla di momenti, non situazioni. Non so. Vediamo un po', dai, domani nel caso se hai 5 minuti liberi, vediamo un po' cosa ne c'è fuori, perché no? Perché no? Non vale, non conta niente. Avanti, Leoncino. C'era Leoncino, se non sbaglio ancora. Io sono qua, stavo sentendo i vostri discorsi. Antonio, il discorso di Antonio è giusto, provare ma crederci, è quello. Poi diciamo che io i lavori li ho fatti tutti e non è che io ho abbassato la testa e sono andato, hai capito? Sempre nel ritmo di stare dritto, tranquillo, rispettare chi c'era prima di me, perché lui era il ricordo, diciamo, quello che c'è un po' di mesi più di me, che vedere come lavoro e imparare diventare un po' più capito. È così, lo so, giustamente, c'è sempre la priorità nelle persone che un pochettino, diciamo, adulte e più esperienza lavorativa, beh, quello è normale. Però in tutti i lavori così, non ti preoccupare. Sì, vabbè, ma non è quello il discorso, Antonio. Il discorso qual è? I lavori ce ne sono tanti, però è inutile che noi li mettiamo in pratica, che tu prendi adesso, se ti vuoi aprire un'attività, io dico un'attività, un negozio di abbigliamento, quella cosa che c'è, chiudi 448, chiudi, perché non c'è il movimento, capito? Non c'è, giusto, devi fare concorrenza a queste persone qua che vengono da fuori, che loro più o meno la faccia di culo ce l'hanno e sanno, capito, intrattenere il cliente e tutto quanto con la parlentina. Noi questo fare il corso discorso con il cliente non mi addice, perché io non adico proprio avere la parlantina, non ci sono buono, ma forte. Lo so, però ci devi nascere con queste cose, no? Non c'è di meno, giustamente anche imparare, perché no? Poi giustamente con un po' di esperienza, poi giustamente metti un po' di tuo per far vedere quello che vali, e perché no? Chiunque potrebbe essere bravo anche a fare quel lavoro lì. C'è poco da fare, esperienza ci vuole, buona volontà in qualsiasi cosa. Giustamente, tu adesso tu mi dici qua, tu hai fatto sempre il barista dietro il banco, io ho fatto sempre il barista, di fare aiutante muratore, aiutante campettiere, aiutante giardiniere, tutti quei lavori che ci sono, io ho sempre imparato dagli altri, capito? Sempre, perché vedendo si impara. Beh, normale, sì, quello è senza ombra di dubbio. Avanti, avvocato Antonio. Eccolo. È pronto? Dimmi. Cosa vuoi che ti dica? Sento. Un attimo nel microfono, giustamente bisogna anche rispettare le persone che sono in ruota, dunque un po' a testa, giustamente, no? Avanti Antonio. Allora, tu sei pronto sì o no a cambiare ogni settimana lavoro? Giustamente uno prova e vede un po' come va la situazione, se non va una, giustamente si prova l'altra idea. Allora, sentimi un attimino, se tu vuoi da lunedì io e te ci mettiamo a fare ogni settimana un lavoro diverso. Proviamoci. Sei pronto? Ah, io non ne ho nessun problema, stai tranquillo. Allora preparati, perché dal lunedì prossimo tu sei automaticamente assunto, sei un imprenditore di te stesso. Penso che sia la cosa più bella che esista, infatti sei santa, fine santa, tanti anni di lavoro forzato per dare a mangiare allo stato, poi se ne avanza a te. Vediamo un po' cosa ne c'è fuori. No, per me è una scommessa. Per te, allora facciamo così, per te è necessità, per me è una scommessa. Giusto perché voglio avere ragione. Giusto perché voglio avere ragione. Che discorso è? Uno prova che ci sia ragione, che ci abbia ragione oppure no, quello è tutto un altro discorso. Quello è un tuo modo di, come non so, di, adesso non mi viene la frase giusta. Non mi viene, te la dico. Comunque no, non ho preso come una scommessa, ci provo, perché no? Per me è una scommessa, perché per me è dimostrare che davvero se uno vuole non rimane a casa, questa è una grande denuncia che sto facendo, se uno vuole non rimane a casa, allora a dimostrazione di questo ti sto dicendo in primis mi metto in gioco io. Vediamo come vanno gli eventi, dai. Manca a ballare l'Alligalli. Zio Leoncino, avvocato Antonio, il comandante Barracuda. Vagava e Cava Roger. Attuale. Se conosci qualcuno lì all'Alcoso, bisogna conoscere qualcuno che ti faccia fare un po' di prova lì alla. Al mercato, hai capito? Al mercato del pesce oppure al mercato della carne o frutta e verdura, di solito cercano sempre qualcuno per dargli un colpo di mano, ho capito? E provare anche lì al mercato di grosso, anche lì hai fatto un salto e vedere cosa ti possono. Cosa ti dicono, ho capito? Sì, io ci ho provato, come ci ho provato? C'è un mio cugino che lavora di primo grado lì, stanno morendo di fame, dice perché diciamo i negozianti non comprano più quasi niente, frutta e verdura, lì vanno direttamente alla metro, non so dove vanno, e prendono una cassetta di mele, due confezioni di arance, diciamo la merce contatta, non in pedana come si faceva prima, la prendono contatta e dunque il mercato sta morendo, stanno pochissimi ambulanti, vanno lì direttamente per acquistare, solo gli ambulanti, poi i negozianti non ci sta andando più nessuno, ho già chiesto anche lì, vai tranquillo, ho girato tutto Sassari. E capo, ma il discorso della metro al mercato di grosso sono due cose diverse, perché la metro quando vai a prendere una cassa di, come ti posso dire, di patate, allora al mercato la paghi a 1 euro al chilo, lì la paghi sì a 1 euro al chilo, però paghi anche l'IVA, hai capito? Che viene il 21%, non ti viene più 1 euro, ma ti verrà quasi 2 euro e qualcosa, hai capito? Lo so, però ho chiesto proprio a mio cugino e mi ha detto proprio, mi ha fatto questo discorso, per quello te lo sto dicendo. Non ci sta andando più nessuno a comprare, il mercato ortofrutticolo è morto, morto completamente, anzi morto in agonia. Ah, il mercato, ma dove? No, quello di Predanieta, non di quello di Predanieta, io parlo di quello di Viale Umberto, hai capito Antone? No, io sto parlando quello di Predanieta, di Viale Umberto, ah, ho capito, sì. No, lì la verità non mi sono avvicinato, lì no. Se vedi, provaci, o macellaio, oppure frutta e verdura, a vendere il pesce, o c'è anche il coso del pane, lì ci sono anche dove vende il formaggio, c'è tutto quanto, chiedere non costa niente, hai capito? Eccolo, già è vero, non costa niente chiedere. Mi stavi dicendo Antonio, siccome tu hai elencato un sacco di reparti, c'è il reparto del pesce, il reparto del pane, e Antonio fa il reparto del pene, ma c'è anche quello. Ma lascialo dire a quello, tanto che qua adesso io sto facendo un discorso serio, che quando scherziamo scherziamo, ma adesso qui io non scherzo mai, io non scherzo mai, perché a me se mi piace aiuto, considero che tu sei un grandissimo amico, perché sei un amico e poi anche un paesano, dunque preferisco aiutare prima il paesano e poi anche l'amico, hai capito? Lo so, poi ci sono delle persone che sono insensibili, diciamo, a questi discorsi, come questo personaggio che abbiamo qua nella 27, dunque ogni tanto escono con queste portate sinceramente fuori luogo. Io sinceramente, come ho detto così, mi sono sceso le braccia, poi vedi tu. Vai, raccogliete le braccia, mandrone, vai a caga, vai. L'hai sentito, Leonci? Ma te ne rendi conto? Io me ne rendo conto, Antonella, è un discorso a parlare verticale, perché poi ti spiegherò, hai capito, Antonella? Forse è meglio, guarda, così si evitano queste prese per i fondelli. Vabbè, già te lo dico, quando ci incontreremo tra noi, o a Ossi, oppure... che ci diamo appuntamento e poi... al limite, se in caso sono libero in questi giorni, ci diamo un appuntamento e vediamo un po' di risolvere la questione, chiedere non costa niente, capito? Vabbè, non c'è nessun problema, ti ringrazio. Avanti, simpaticone! Ascolta, siccome io da simpaticone so al fare di Leoncino, soltanto che le dico in maniera diversa le cose, credo in te, lo sai che credo in te. Allora facciamo una cosa, siccome domani mattina tu non dovresti avere niente da fare, Leoncino, tu a che ora smonti dal lavoro? Io domani non lavoro, io domani sono libero. Allora, per parlare in verticale come vuole Antonello, siccome lui è molto ospitale, c'è una cosa che è molto ospitale, ci sai che andiamo a pranzo a casa sua? Per me non ce n'è problema. Ok, cool. Pare adesso veniamo a casa tua, io e Leoncino, io andiamo domani mattina, preparati, passa a prenderti con la mia macchina, così andiamo anche al Carpiccio con la Golf. Sinceramente il problema non era un piatto di pasta, non si nega nessuno, per carità. Poi preparo quel piatto di pasta, col sugo, ben condita, e poi almeno una bella bottiglia di vino e sembrerebbe tutti insieme, perché no? Assolutamente, vi siete sovramodulati, Leoncino, sei passato tu e passato lui. Allora, domani mattina passo a prenderti. A che ora? Vediamo, se non ci troviamo direttamente lì. Tu lo sai dove abita lui? No, negativo. E vabbè, intanto già viene a prenderci a cosa, come si dice, al centro del paese, anche perché io è possibile che me ne devo andare un attimino prima. Ah, capa, non c'è problema, sei... Bravo. Ma che evitato? Riprendi tu, Antonello, dai. E io non c'è problema, ripeto, che preparare un piatto di pasta non costa niente, però almeno vuoi una bella bottiglia di vino buona, anzi fai anche due, perché sono da 75 cl, non basta, per tutti e tre, anzi sì, per tutti e quattro. E infatti mi preparo un bel piatto di pasta, un bel panino, un pezzo di formaggio e voi portate il vino e vi riempite lo stomaco, non c'è problema. Hai riempito mezza strada, arrivo il tuo vino, la tua cirriaca, adesso stai cercando vino dagli altri. E io, fatti serio, e apri la questa cantina che hai chiusa. Ma sinceramente cantina non ne ho, io l'acquistavo il vino. E quando ho avuto la possibilità ho offerto nella mia possibilità. Poi giustamente, non è che voi venite a mani vuote, scusami un attimo. Vi siete autoinvitati, io non rifiuto per carità, non c'è nessun problema, però almeno il vino non è che mi costi più così tanto, siete in due. Guarda che ti ripeto, non è quello il problema. Comunque non c'è problema, già state girando, oltre che hai rinfacciato anche le cose che hai offerto, ma non c'è problema, guarda, io porto a lui, lo porto a me, così ormai con sto che muovo i piedi e non con le mani. E vabbè, a che ora venite? Adesso vediamo, la mia disponibilità è quella del signor Leoncino. Per me non c'è nessun problema, adesso io sono libero tutta la mattina, per me qualunque ora mi va bene. Anche per me se ci potremmo anche fare colazione, non c'è problema tu. Non c'è problema, dai, paga Antonio per la colazione. Grazie Antonio. Non è quello, ci mancherebbe. Piacere stare con gli amici, non è quello di stare alla cassa, non è quello, non c'è problema. Guarda, io credo che se c'è una persona che è generosa, quella lì è Leoncino, che lo è stato quando aveva soldi, certo non si può dire che non sia stato generoso, perché io l'ho conosciuto di vista in quel periodo e era un bel generoso, e c'è gente anche che andava a fare colazione alla stazione e non si è mai messo la mano in tasca, questo ho detto anche da altri. No, scusa un attimo, che quando c'erano, quando lo potevo fare, l'ho fatto sempre con buon cuore, capito? L'ho fatto con buon cuore, però c'era gente che ne approfittava, hai capito? Sì, scusa un attimo, Leoncino. Non sempre. Antonello, dimmi. No, niente, ma per come stava esprimendo Leoncino mi ha dato l'impressione, diciamo, che forse si trova un po' a disagio, forse per quello, diciamo, venire a casa, no? Io spero di no, per carità. Però per come ha parlato lui mi ha dato questa impressione. E dunque sicuramente lui preferirebbe più andare a fare la colazione tutti e tre insieme che stare lì a pranzo. Per me non c'è problema, mi fa anche piacere. In questo caso paga Antonio. Problema. Allora, la colazione è esclusivamente l'inizio di una bellissima giornata che si concluderà con un brindisi fatto sul tuo desco e con una pasta asciutta con i fiocchi, come solo tu sai fare, visto che hai millantato anche di essere un ottimo cuoco. E allora festa, tutto il giorno. Non c'è problema, allora dai. Io spero che, guardi, domani sono in video alle 7. Dunque alle 7, 8 e mezza, anzi 9 meno un quarto facciamo colazione a Sassari, dai, mi raccomando, non è che poi facciamo colazione 10 e mezza, 11, no, perché tu anche verso mezzogiorno fai colazione. La colazione si fa la mattina presto, se non sbaglio, John G, correggimi, Dunque almeno 9 meno un quarto ci incontriamo lì, all'entrata di Sassari, che c'è un bellissimo bar, dopo il semaforo sulla destra, e facciamo lì colazione. Tanto se due passi, Antò, così non ti disturbiamo più di tanto. Guarda, io volentieri la farei, il problema è questo, che se volete ve la lascio pagata, il problema è questo, che io alle 9 sono alla casa della Fraterna Solidarietà per fare la mia opera di volontariato, quella che faccio ogni giorno senza dire niente a nessuno, se no molto volentieri. Dai, adesso stai a mettere scuse, non ti ho chiesto sinceramente i tuoi itinerari giornalieri. Comunque, fatto sta, se si fa colazione tutti e tre insieme, non più non va, e con che faccia vado lì, e devo fare colazione, l'ha messo in conto Antonio, per cortesia. Non so molto di fare colazione e godersi aggiornato come tu poc'anzi hai messo in pratica. Allora, fatto sta, domani 9 meno un quarto, via all'entrata di Sassari, tutti e tre facciamo colazione. Ascolta, io te l'ho detto, te lo dico per la seconda volta, che prima il dovere e poi il piacere, poi il dovere, il mio dovere è quello di fare solidarietà, almeno in questi giorni qua, e poi per stare con voi è un piacere, quindi possiamo trasformare tutto in un allegro aperitivo prima di salire nel tuo desco, nella tua casa, nella tua dimora. Parlato di colazione, non di aperitivo, per cortesia, non cercare di cambiare le carte in tavola, dai, abbiamo parlato di colazione, anzi, hai parlato di colazione, poi le scuse, mettile da parte, fai colazione, giustamente, come tutti gli esseri umani, e poi fai il tuo dovere. No, aspetta, adesso te lo ripeto, siccome ho deciso io di fare colazione, io decido di non farla, a questo punto decido io, se ti vuoi accollare bene, se no, uru. Mi dispiace, ma non è così il gioco, mi dispiace. Perfetto, è in cularella, non ti giochi con me. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Comunque, Antonio, domani, come accompagni la bambina, se in caso sono sveglio, ti faccio un colpo di al baracchino, ci troviamo e poi vediamo un po' cosa fare, capito? Per carità, forse la cosa è migliore, guarda, perché se te ne sei accorto, almeno tu sei fosse stato disponibile e gentile, invece lui guarda quanti raggiri ha fatto per poi tornare sempre a quello che vuole lui. Dunque, hai cosa fatto di quel discorso di invitare, di fargli passare una bellissima giornata, vedi che ti sta confondendo le idee. Prima sembra bravo e buono e poi alla fine vedi un po' come è fatto Antonio, la vera natura di Antonio, vedi? Come ti stava prendendo per il culo prima, quando hai detto pane e bene, ti sta prendendo per il culo adesso, ma te ne rendi conto? Guarda, meglio io e tu a fare colazione. Ah, io qua, per me non se vuole aggregare anche Antonio, non ce n'è proprio impegnato, anche dove siamo, però problemi non ce n'è, capito? Problemi no. Per me non ce n'è, Antonio, non ce n'è, e io non si adesso mi conosci tu a me, cazzo. Dunque, appunto perciò, ci troviamo e poi facciamo, chiacchieriamo di cotte e di crude, senza fare polemiche qua all'apparato, capito? Sì, sì, la cosa migliore, sì, ma comunque lasciamo perdere, da, meglio cambiare il discorso, perché poi alla fine si fa le lunghe e stare lì a mollicare la cacca non va bene. Avanti Antonio. Ora ce la ferma che meglio. Assolutamente sì, dai, fate colazione voi e poi al limite facciamo un aperitivo con me, così io ho finito queste scuse e poi tutti in festa, dai. No, grazie dell'aperitivo, lo rifiuto. Antonello. Antonello. Dimmi di un C, ma io sinceramente, boh, non è che mi farebbe tanto piacere prendere l'aperitivo con Antonio, poi dimmi tu il tuo parere, non lo so. Boh, non so cosa dirti, non riesco a esprimermi in questo momento. Ci troviamo alle 10:30 sotto casa di aver capito chi. Sì, dell'amore mio. Hai capito, no? Del nostro amore. Ormai l'abbiamo fatta la dichiarazione in due. No, scusate, adesso sto volendo rovinare quel diritto. Io vado in QRT 144 perché domani mattina devo fare un breve bene e non stare lì a fare colazioni e a cose. Comunque, l'hai sentito, ben ascoltato lo stesso Antonello Barrascura e anche a Leoncino. Adesso chiaramente direi che è una scusa, vi in barabana, se li siete impulsi, dai, avanti, ciao. Eia, guarda, veramente mi ha tolto le parole da bocca, guarda. Mi ha tolto veramente le parole da bocca, sono contento, così non spreco fiato, ecco, ne ho sprecato già abbastanza. Vabbè. Allora, e anch'io chiudo le trasmissioni, che anche domani ho i miei impegni. Vabbè, non c'è problema, Leon G, appena ho 5 minuti ti attacco sul 10 o dove capita, dove c'è qualcuno, nel caso ci sentiamo lì. Va bene, saluto Antonio Grotte e Leoncino, buonanotte a tutti e due. Ciao Antonio, comunque alle 10:30 sotto casa di Alessio, capito Antonio? Alle 10:30 io sono lì, poi se non puoi venire al limite fai uno squillo a Pompugno e dici guarda che non posso venire perché ho avuto problemi, ok? E ci sentiamo all'apparato, da tanto voi già siete, tanto quando siete a Pompone siete già acceso, vi mettete sul 10 già, se ci sentiamo lì non c'è nessun problema, va benissimo, ti ringrazio. Benissimo, buonanotte a tutti e due e buon proseguimento di serata. Ok, dai, ciao, buonanotte, salutami la tua 50 e la piccolina, lì, un buon 144, dai. E io ti ringrazio. Ciao Antonio, ciao. Ciao a tu, buonanotte, un buon 144, quando lo farai, è un buon coso per domani, è una buona, quello che hai detto tu che devi andare a fare quella cosa di, quella, l'opera buona. Grazie Giuseppe, buonanotte anche a te, ciao. Ciao, buonanotte. Vista, a me non mi ha salutato. Ti ho salutato. Vaffanculo. Oi, cazzo, il gatto è la volpe. Ma te ne rendi conto? Ma te ne rendi conto il gesto? Eh? Fanno più male le parole che non le mani. Ma te ne rendi conto? Non puoi andare quando è tacciato tipo di un muro. Comunque noi siamo ricati alla volta, a questo punto bisogna trovare Pinocchio. E ce l'hai Pinocchio in frequenza. Oh già. Chi è questo qua? Ah, avanti, chieda la buonanotte, vicino vicino. Oh, l'hai copiato? Adesso mi viene il nome, quello di Sassari, quello più vicino senza capelli. Ah, ha dichiarato la buonanotte. E chi sei? Buonasera anche a te. Barracuda da questa. Vediamo se c'è ancora l'Antonio Grotte per i saluti a Domenico. Sveglia tu, sveglia. fate che funzioni, per carità. Adesso usando questo apparato, come ti sembra come modulazione? Funziona benissimo, perfettamente comprensibile la modulazione limpida. Limpida e perfetta. No, per carità. Quando te lo prendi uno, come si deve, va benissimo. E tanto, poi, più di tanto non si può fare, dunque, alla fine. Se riacquistare, acquistare, poi per che cosa non te lo sfrutterai mai. Uno, due, almeno lato di ricambio, come si deve, e va benissimo. Vai a dormire, pompazzo. Ah, hai visto che prima o poi usciti. Mi dove? È rientrato Antonio, quello che ancora non riesce a piazzare la stazione. Digli tu qualcosa, boh, dagli qualche consiglio per darci che a te ti ascolti, non lo so, io ci ho provato tante volte, ma sai, quando la persona è dura, avanti Domenico per Antonio. È bello prendere in giro chi non si può permettere gli apparati, Porta, Domenico, mi ascolti? Domenico, ti sta chiamando Antonio, lo ascolti? Però non è carino, dove adesso, perché mi stai trattando male. Non è il caso, scusa, solo perché ho poca esperienza, voglio diventare come voi. E dai, quanto mi puoi prestare? Non lo so, mi sei offerto tu, dimmi tu cosa mi puoi prestare. Vediamo, però mi devi far comprare qualcosa di bello, Quanto va 5 ore, quanto va 3, cosa vuoi? Quanto va 3 non esiste. Non l'ho sentito, adesso sono qua, e ci metti via. No, ci penso io Anto, che io sono più forte di te. La mantova 3 mentre Antonio giustamente non esiste, o la mantova 1 o la mantova 5, tutto lì. Beh, a me c'è una persona che si è fatto su, ha proprio ragione, il più scarso GP di Sassari. Nome, cosa ti vuoi comprare, la 1 o la 5 ad Antonio? Non ho capito se sta venendo verso Sassari o sta andando verso... Dove sta andando? Non ho capito. Sta andando a Sassa e sta andando in deposito. Dunque, quando io l'ho rintracciato era lì a... No, cosa... Cloache. E lui non ti sentiva. E niente, mi ha detto di dire cos'è voi, la 1 o la 5. E poi giustamente quando lui durante il viaggio a quei 5 minuti si avvicina e te l'acquista, vedi tu, vedi anche lui l'opera di bene. Roger, Domenico, mi stai ascoltando? Anche se sono basso basso. Ha detto di dirglielo che sta entrando in galleria e digli cosa vuoi. Ma non lo occupi, va bene, non lo occupi, cosa pretendi, senza antenna, per carità. Io do brecco, avanti il brecco. Ti vuole copiare questo qua che c'è sotto? Sì, dice brecco, brecco, brecco, brecco, però è Santiago 0,5, quasi 1. Io però ti sto arrivando. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola. Santiago 3, radio 3. Fa piacere. E tu, ancora c'hai. Per acquistarla, acquistarla e poi senza antenna, ma vabbè, ognuno è libero di fare per la propria vita ciò che vuole. Tu per te che non ascolti qualcosa. Ora, ora, ora, ora. Poi si imparerà. Sbagliando si impara. Attento Domenico. Attento Domenico. È sicuramente ancora in galleria. Aspettiamo un attimino che abbia il raggio d'azione, così. Tanto poi alla fine tu, quando lui. Ora, ora, ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, prova, microfono, prova, prova, prova. E dai, almeno in quello, sei fortunato che la 131 affianca è il punto in cui tu abiti, almeno in quello sei fortunato. Fatti una cagata, Antone, fatti la grande però, mi dammi un controllo serio, ola, ola, ola. Allora, Santiago 9 più 30, radio 5 qua dalla stazione del Barracuda. San Farogger, avanti che mi sta chiamando, avanti. Copiato, guarda avanti tu. Io. Negativo, avanti di nuovo amico, avanti se mi copio, ora, ora, ora, ora, ora. Radiali o è solo stella centrale? Stella centrale e tre radiali. tipo antenna VHF, perché così le fibre di carbone di solito sono le VHF. Sì, sì, tipo antenna VHF. Si può passare adesso, aspetta. Ma così mi sentirei molto peggio. Tipo antenna VHF, proprio perché ne avevo un'altra, era 43 metri, no, no 27 questa qui. E uso balcone, diciamola. Ma non è male, cosa c'ha di DB di guadagno? Non mi ricordo, me lo stava dicendo. Io la voglio montare sul soffitto, sì, però non voglio una cosa molto grande, capito? E purtroppo con la 27 siamo legati alla grandezza, più è lunga l'antenna e meglio va, capito? Per quanto c'è questa energy che ha questo pupazzo qua di cose, di ossi, che va molto bene, capito? Molto molto bene, è che è molto fragile però. Non è bene tanto, guarda che in questi ultimi che ho piantato quest'anno, sì, no? Aspetta, sì, quest'anno, i primi di gennaio se non ricordo male. Sì, sì. Ha tirato abbastanza al vento, visto che si è comportata benissimo. Infatti va bene. Va bene perché è leggera, va bene perché costa poco, va bene perché ha una resa devastante. Guarda, falchetto e tuo come stati uscendo. Va più che bene, assolutamente. Se vuoi più che altro raggiungere una certa altezza, perché non ha peso, quindi rimane tranquilla. Sì, ma da parte tua non te l'ho mai chiesto, il segnale da parte tua, come il mio. Non ne ho il mister, e non te l'avrei dato comunque. Capito. Niente, ne sto pensando un'altra idea, la verità. La Turbo 2001, giustamente l'antenna della macchina, no? È alta 2 metri, completamente lo stile in acciaio inox, inossidabile, e ha un guadagno di 6,5 decibel di guadagno, cosa che la mia solamente un 2,35, è un abisso tra una e l'altra, e stavo pensando di affiancarla all'antenna che ho io della Energy per vedere un po' la differenza. Sono convinto che la Turbo 2001 mi aumenta un pochettino più di segnale. Quindi che sia al massimo, dai. Va bene giovani, io vi ringrazio per il QSO, vi saluto, ben sentito Domenico, ero già in QRT, in QRX anzi, ma stavo andando in 144. Ben sentito Domenico, ci sentiamo alle prossime, dai. Uno di questi giorni ti faccio sentire come arrivo dall'altra parte. Dopodiché ben sentito anche a te, anche se dico una bugia, Antonello Barracuda, buon 144, ci sentiamo alle prossime. Corran tu, ti auguro una buona notte. E salutami anche la tua signora. È esagerato, già mi vuoi poco male. Comunque, quando sono di buon umore sono così, Anto. No, sto scherzando, per carità. Va bene, anch'io vi saluto lo stesso, anche a te Domenico. Anch'io vado a Nana, ci sentiamo alle prossime allora, dai. Buon proseguimento di serata e tutta domani.